Le piacevoli notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola. Introduzione all'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte ottava. Il biondo e luminoso Apollo, figliuolo del tonante Giove e di Latona, ornai s'era partito da noi, e le lucciole, uscite delle cieche e tenebrose caverne, rallegravansi di volare per la oscurità della notte, e quella d'ogni intorno signoreggiavano, quando la signora, venuta nella spaziosa sala con le damigelle, graziosamente ricevette la nobile e orrevol compagnia, che poco innanzi al bel ridotto era arrivata. E veggendo tutti come la sera precedente esser ridotti, comandò gli strumenti che venissero. E poscia ch'ebbero danzato alquanto, venne con l'auro vaso uno servente, e di quello un fanciullo trasse 5 nomi, di quali il primo fu di Eritrea, l'altro di Cateruzza, il terzo di Arianna, il quarto di Alteria, riservato l'ultimo a Lauretta. Ma prima che la festevole Eritrea desse principio alla sua favola, la signora volse che tutte 5 insieme, con lor strumenti, cantassero una canzone, le quali, con lieti visi e angelichi sembianti, in tal maniera incominciorono la lor cantilena. Questa fera gentile, dove soglio trovar sovente unita, nei suoi begli occhi la mia morte e vita, mentre più allargo alle lagrime il freno, per ritrovar pietà, non pur mercede, ella poco si cura e il duol non crede. E nel volto sereno, per maggior doglia e per peggior mia sorte, scorgo che il ciel m'ha in odio, amore e morte. Piacque a tutti il dolce celeste canto, e massimamente al bembo, a cui più che ad ogni altro toccava. Ma per non scoprir quello che nel cor ascoso teneva, s'astenne da ridere, e volto il viso verso la graziosa Eritrea, disse: «Sarebbe oramai tempo che voi con una dilettevole favola deste principio al novellare». Fine dell'introduzione all'ottava notte. Registrazione di Roberto Cofini.